madre si danza, danza e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Ardenti e Radio Tirana trasmette.